sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Risalì il dirupo e vidi che davanti a me non c'era una strada, ma un sentierino di montagna, impraticabile ad un'automobile. Avevo percorso un intero tornante con solo due ruote laterali, le altre non appoggiavano su nulla. Sono Elide, vivo a San Giorgio in Bosco, sono sposata con Leone il Meraviglioso, lavoro per il Vescovo di Padova. Come hobby suono la cetra. La storia di Elide è una storia che, se non vi è successa, è quantomeno una paura, un incubo che avete di fronte a voi ogni volta che prendete un'automobile. E non sto parlando di un incidente, che quello più che un incubo è una speranza, uno non ci pensa nemmeno. Avete presente quando siete magari in vacanza, quando siete in una zona, in un luogo che non conoscete e dovete recarvi in un posto, non sapete se la strada è quella giusta, e a un certo punto imboccate una strada che all'inizio è normale, poi lentamente comincia a restringersi e c'è qualcosa nella testa di chi guida, uomo, donna che sia, ragazzino o anziano, che dice vai avanti, tanto poi dopo si allarga. No, no, ma adesso è questo pezzo, poi dopo la curva la strada si allarga. E a un certo punto quella strada non solo non si allarga, ma forse si restringe e voi da lì non riuscite più ad uscire. 349-238-6666, buongiorno a tutti, questa è Radio 24, le 16:10 minuti in punto, voi siete qui, la storia di Elide e di come si rimane non solo bloccati in una strada di montagna, ma addirittura in equilibrio su due ruote. Se vi è successo, se avete mai con un mezzo di trasporto, più probabilmente su quattro ruote, un'automobile, un furgone, un camion, se siete un camionista in questo momento e state viaggiando e avete un bilico, il bilico è quello lungo, unico lungo, il bilico mi piace tantissimo, il bilico saranno 20 metri? No, sto esagerando, forse 15. 349-238-6666. Tu uomo che sei su un bilico, quanto è lungo il tuo bilico? E soprattutto, come si chiama l'altro con autoarticolato? Quello doppio è l'autoarticolato. Pensa a rimanere incastrato con un autoarticolato che tu devi girare a destra per mandarlo a sinistra. 349-238-6666. Irene, ad esempio, scrive: avete mai provato a parcheggiare un Ducato in centro a Parigi? Ecco, e potrebbe già finire qui. No, Irene, grazie, arrivederci. E lei invece scrive: per fare delle consegne, dopo due ore di tentativi mi infilo in un parcheggio sotterraneo, rimango incastrata, i soffitti non erano abbastanza alti, disperazione, mi faccio forza, mi disincastro. E già lì non voglio immaginare la manovra di disincastro, Irene. Lentamente, tipo, poi a un certo punto c'è un colpo sordo e sei libero. Ero anche in discesa, tanto per gradire. Poi mi dirigo all'aeroporto, mollo il Ducato nella giuna familiare. Ma che fatica. 349-238-6666. Prima di cominciare con la storia di Elide, vi rilancio un appuntamento che abbiamo lanciato ieri, che ormai è ufficiale, che da sabato 1 novembre cominceremo un appuntamento, oltre a quelli feriali, del lunedì al venerdì alle 16, un appuntamento anche del fine settimana. Il sabato e la domenica Radio 24 cambia un po' i palinsesti e noi ci infiliamo con una edizione speciale di Voi Siete Qui, che si chiama I Diari di Voi Siete Qui. Quindi, se avete voglia di partecipare a quella parte, se volete partecipare a questa porzione, continuate a mandare racconti, storie di vita, un episodio che vi è successo e che in qualche modo racconti qualcosa di voi. Se invece avete delle pagine di diario, proprio delle pagine scritte manualmente, che avete scritto voi quando eravate ragazzi, che ha scritto vostra madre, vostra zia, vostro fratello, e le avete trovate, ce le avete lì, andate a rimestare nel passato, salite su in soffitta o scendete in cantina e trovate questo diario e volete mandarcelo, l'indirizzo è sempre quello: voi siete qui @radio24.it. E il sabato c'è un'edizione speciale di Voi Siete Qui che si chiama appunto I Diari di Voi Siete Qui, perché a noi con la fantasia veramente non ci frega nessuno. Il sabato a partire dal 1 novembre, nel primo pomeriggio, ancora non abbiamo capito bene se alle 14 o alle 14.30, ma plausibilmente alle 14.30, ma non lo diciamo ancora. Comunque, primo pomeriggio, dopo che avete digerito, che siete lì, aspetta un attimo, accendiamo Radio 24 e sentiamoci I Diari di Voi Siete Qui. Voi siete qui @radio24.it. Adesso immaginate di essere una donna, immaginate di essere al volante e di prendere una strada che adesso è stretta, ma poi poco più avanti si allarga. Abitavo negli anni 90 sulle colline umbre. dovevo recarmi in valle per fare degli acquisti e mi era stato detto che la strada principale era interrotta per dei lavori di manutenzione e quindi di prendere la vecchia via, quella che portava nelle zone dei contadini. Quando arrivai a quella che pensavo essere la vecchia via, la imboccai tranquillamente. Era una strada battuta, stretta, sembrava una strada da carri, quella classica fila di erbetta al centro. Quindi mi ci inoltrai fiduciosa. Man mano che la carreggiata scendeva, mi accorgevo che questa si faceva molto più ripida di quello che immaginavo e sembrava anche restringersi sempre di più. Era però talmente ripida che tornare indietro in retromarcia era impossibile. Non mi rimaneva che andare avanti, sperando che poi la via si aprisse e sbucasse in una strada normale. Cominciai ad avere un po' di paura e snocciolai uno dietro l'altro una serie di angelo di Dio, perché non sapevo davvero che cosa fare. Percorsi in questa condizione un tornante, poi la strada si interruppe e alla fine non c'era più niente. Finiva là, nel nulla. La macchina era una Renault bianca, piccolina, e la strada me l'aveva consigliato un contadino del luogo, ma lui faceva riferimento a un'altra strada, ovviamente. Io non ho mai avuto la percezione che fosse un sentierino così piccolo. Io lo vedevo come una carreggiata dove poteva starci un'automobile. Scesi allora dalla macchina e, sedendomi sull'erba, scivolai giù dal piccolo dirupo che separava ora la mia macchina dalla strada principale che vedevo lì davanti a me. La vettura sembrava calata dall'alto e posata indenne fra i rovi. La guardai sconsolata, senza sapere cosa fare. Nel frattempo ecco sopraggiungere gli operai che stavano lavorando con ruspe e trattori sulla strada in rifacimento. Furono loro a prendere la mia macchina con le braccia, dopo aver spianato il dirupo con la ruspa e a calarla di nuovo sulla strada. Già, questo è davvero un salvataggio. Ma fu quello che mi mostrò uno di loro a sconvolgermi. Lui mi guardò incredulo e mi disse: «Signora, venga, le faccio vedere che strada ha percorso». Risalii il dirupo e vidi che davanti a me non c'era una strada, ma un sentierino di montagna, impraticabile ad un'automobile. Non solo. Era fisicamente impossibile che la mia macchina appoggiasse con tutte le ruote sul suolo. Io sono scivolata da questo dirupino col sedere, sono scesa giù, ho visto arrivare un operaio, ho detto aiuto, ci siamo girati, abbiamo visto questa macchina che sembrava appollaiata lì in mezzo al bosco e immediatamente lui ha chiamato la ruspa, ha chiamato tutti gli altri operai e nel giro di 10 minuti hanno fatto tutto il lavoro. Avevo percorso un intero tornante con solo 2 ruote laterali, le altre non appoggiavano su nulla. Secondo le leggi della fisica io avrei dovuto cadere, rotolare, rovesciarmi, e invece qualcuno aveva tenuto le ruote della mia macchina al sicuro. Io dalla vettura non avevo percepito quello che vedevo ora davanti a me. Ogni tanto sono tornata a rivedere quel sentierino con grande stupore. Sono convinta che qualche angelo mi abbia davvero salvata. Solo un angelo avrebbe potuto farlo. What was I saying? Where do I stand? Is that my voice praying? Am I even still a man? The keys in my pocket. Bellissima la foto che ci ha mandato Elide, sembra scattata da un professionista, anche perché lei non guarda diretta in camera, c'è un signore sulla destra che è fuori fuoco che parla e lei lo ascolta. Il retro sembra veramente un set cinematografico, sembra una biblioteca o un locale. Lei indossa una giacca arancione e ha la faccia di una che in quella situazione in macchina si potrebbe trovare davvero in difficoltà. Pronto Elide, buongiorno. Eccomi. Come stai? Bene, grazie. Dove ti trovi in questo momento? Adesso sono dentro in quel set fotografico, è la mia casa in realtà. Ah, è casa tua, ma allora c'erano delle luci particolari perché sembra veramente un set. È una casa molto luminosa, una casa meravigliosa. Per quelli che ascoltano il programma, Elide, diciamo, è già una frequentatrice di Voi Siete Qui, ci aveva già mandato una storia tempo fa. Correggimi se sbaglio, Elide, era una storia della una composizione di quartetto per archi, giusto? Sì. Ok, per il mio CD Parva, che poi vi ho inviato, perché appunto suono la cetra, avevo fatto questa cosina con i quartetti. Certo, invece torniamo negli anni 90. Innanzitutto, in che zona dell'Umbria abitavi? Vicino a Spello abitavo. Beh, una zona magnifica. Sì, meravigliosa. Di fatto eri vicina di casa di Tiziano Bonini, che è di Foligno. Ecco, sì. In quelle zone lì. Andavi a fare la spesa a Foligno, probabilmente. Sì, qualche volta a Foligno, qualche volta a Spello. E che cosa ci facevi là? Perché io mi immagino le colline umbre sempre come un po' zone dove dei fricchettoni degli anni 70 abitano in armonia con la natura, ma perché ho una fantasia di uno del Piemonte occidentale, ovviamente. No, ho passato lì un periodo della mia vita e poi sono ritornata in Veneto. E cosa facevi lì? Lavoravi? Avevi... Anche, sì. Lo ricordi come un bel periodo, però? Sì, un periodo molto bello, assolutamente. Dove di fatto, adesso ce la spieghi meglio, sei sopravvissuta, possiamo dirlo, Elide, a una cosa... Sì, assolutamente, sono veramente una sopravvissuta. Perché, allora, spiegacelo meglio, cioè c'è questo sentierino piccolissimo, tu lo prendi convinta che sia una strada, a un certo punto non riesci più ad andare avanti, chiami questi operai e questi ti dicono, guardi in che posizione è. E sì. Non capisco la macchina come fa a stare in bilico però su due ruote. Io ho fatto questo sentiero e non mi accorgevo che era così stretto, lo percepivo come un sentiero abbastanza largo. Poi si è fermata in un punto perché non c'era più spazio, non c'era più nulla, e c'era come una specie di piccola radura dove mi sono fermata con questa macchina. Sì. Poi sono scivolata giù, ho chiesto aiuto ed è arrivata questa truppa di operai. E sono stati loro a portarmi proprio in salvo, a spianare il dirupo, a mettere giù la macchina. Quanto ci hanno messo? Quanto lavoro hanno fatto per tirarti? E sono stati veloci, devo dire, perché avevano tutta l'attrezzatura per chi stava risistemando la strada. Quindi le ruspe, avevano... Sembravano lì apposta. E sembravano lì apposta per salvarmi. Elide, tra l'altro hai una voce bellissima e raccontata da te qualsiasi cosa sembra quasi una fiaba. Grazie, sei gentilissimo. Mi ricordi, perché tu fai un lavoro curioso, cioè curioso, ripeto, per uno del Piemonte orientale, curioso, tu lavori per il vescovo di Padova, quindi hai rapporti direttissimi con lui. Certo. Tipo è il vescovo? Il vescovo è una persona normale. Beh, no, insomma, normale è una persona di fede. Ok, certo, quello immagino. Però, che sai, è uno con cui si scherza. Sì, il vescovo di Padova è assolutamente solare, scherzoso. Ma tipo si esce a cena col vescovo di Padova? Qualche volta ci ha invitato a pranzo, invita a pranzo le donne che lavorano in curia, perché siamo più donne, non sono l'unica che lavora. No, questo lo immaginavo, perché ti confesso che io quando da ragazzo ho frequentato il seminario di Novara, quindi sono stato nell'ambiente per un paio d'anni, e rimasi sconvolto quando scoprì un prete che fumava. Ah! Il vescovo di Padova. Ovviamente. Il vescovo di Padova non fuma. Perfetto. Però ci sono molti preti che molti fumano. Sì, che non è un peccato, tra l'altro, no? Non fa parte del come si chiama? In realtà sì, perché tutto ciò che danneggia la tua salute non è qualcosa di buono. Perché il corpo è un tempio. È il tempio. Benissimo, è così, le abbiamo dette tutte. Elide, fatto anche la catechesi. Oggi, esatto. Elide, ti ringrazio per la storia e la chiacchierata. Grazie. In bocca al lupo. Dai. E volevo dirti grazie per la storia di ieri, mi ha veramente commosso, e ti ringrazio per i tuoi 5 punti per la storia di ieri. Do un bacino a Giulia. Grazie mille, ciao Elide. Grazie, ciao, buona giornata. Ciao. Nel film Into the Wild, ve lo ricordate, quello di Sean Penn, c'è una scena in cui il protagonista trova la carcassa di un caravan in una valle sperduta dell'Alaska. La sorpresa del ritrovamento è così grande che nello spettatore lascia subito il posto a una domanda, che è: ma quel furgoncino lì, in quel posto lì, come c'è arrivato? Perché in realtà è meno raro di quanto si immagini ritrovare delle carcasse di automobili, di furgoni, in luoghi improbabili. Ad esempio, sei in un bosco, cammini in mezzo agli alberi e ti ritrovi davanti una macchina arrivata chissà come lì. Oppure sei in montagna, sei arrivato in un alpeggio che si raggiunge solo con un sentiero, tipo quello di Elide, e c'è la carcassa di una macchina che fa da casotto degli attrezzi. La domanda che ti poni è sempre: ma come c'è arrivata? L'Umbria è un luogo ideale per questi incontri improbabili, è piena di boschi, di valli, di strapiombi, strade nascoste, campagne che sono lontane dalla civiltà. Anche nei centri abitati l'Umbria offre la possibilità di farsi la stessa domanda, perché le strade spesso sono strade medievali, i portici sono a misura d'uomo, gli incroci sono pieni di spigoli, di balconcini, di sporgenze, di scalini. Quello è anche il terreno ideale per un'altra domanda che di solito segue la prima quando si incrocia una macchina. E la domanda è: voglio proprio vedere come viene fuori da lì. Ma come i pescatori conoscono le secche in mare, allo stesso modo gli umbri si muovono con scioltezza sulle loro strade. Io ho lavorato più di una volta in Umbria e l'ho sempre scampata, fino a quando l'inverno scorso è capitato anche a me. Ero a Città della Pieve per un fine settimana insieme a degli amici, un gruppo teatrale toscano che si distingue dal resto del mondo teatrale per due caratteristiche fondamentali. La prima è che fanno belli spettacoli e la seconda è che con loro c'è sempre un motivo per non andare a letto prima dell'alba. Loro non sanno del mio arrivo, così dopo lo spettacolo, quando mi vedono, la domanda che mi fanno è: ma come ci sei arrivato qua? Poi mi invitano a cena nella casa dove abitano. È mezzanotte, ma non posso dire di no. A differenza di sempre, però, questa volta siamo tutti un po' stanchi e dopo cena, relativamente presto, chiudiamo la serata. E fino a qui è andato tutto bene. Da quel momento, però, iniziamo a commettere una serie di errori che fanno precipitare la situazione in brevissimo tempo. Il primo errore è che insistono per accompagnarmi in macchina e sta nevicando forte. Le strade sono bianche di neve e io me ne tornerei al bed and breakfast a piedi, ma sono stanco e quindi accetto il passaggio. Il secondo errore è che, invece di passare dalla solita strada, un po' più lunga, passiamo dal centro storico, che a quell'ora tanto si può fare. Il terzo errore è che potrebbero accompagnarmi con un'utilitaria, invece no, prendono la station wagon della compagnia. Il quarto è che nel momento in cui ci accorgiamo di aver imboccato una strada troppo stretta, invece di tornare indietro, quando è ancora possibile farlo, andiamo avanti, sperando che la strada si allarghi. Invece la strada si stringe, non possiamo aprire le portiere, non possiamo nemmeno uscire dai finestrini. Ci fermiamo, sbattiamo sul gradino di una porta d'ingresso di una casa. La neve e l'ora rendono tutto silenzioso. Mi viene in mente che avevo sentito di un furgone che si era incastrato in un canyon del Colorado e quelli che c'erano dentro erano sopravvissuti aprendo con un coltellino svizzero il tetto del furgone come una latta di pelati. Noi siamo più fortunati perché la macchina ha il tettuccio apribile, ma sopra il tettuccio c'è mezzo metro di neve ed è impossibile aprirlo. Per fortuna il portellone del bagagliaio si può aprire anche dall'interno e così facciamo. Dopo che ci siamo salvati dall'assideramento, pensiamo alla soluzione per liberare la macchina. Allora tutti loro chiamano il padrone di casa, che è uno del posto, uno che, come il pescatore, conosce le secche e sa come muoversi in quelle strade. Questo si presenta con una 126 modificata, con una specie di mini spazzaneve davanti e dei cavi d'acciaio per spostare la macchina. Prima di mettersi al lavoro, guarda tutti noi negli occhi e anche lui, nonostante sia un nativo, fa la solita domanda: ma questa macchina, in questo posto, ma come ci è arrivata? E alla fine della storia di Elide ho capito che, primo, l'Umbria continua ad essere una terra di miracoli. Secondo, più la strada si stringe, più si è convinti che si allargherà poco più avanti. Terzo, non sottovalutare mai il bagagliaio che si può aprire dall'interno. Quarto, non dipende dalla dimensione della strada, ma da quella del mezzo. Quinto, non esiste strada senza uscita. Lizards coming in in their dozens, in shifting light through narrow windows smeared with the grease of ovens. I have unattractive nurses in my dreams, stacked low like pancakes, busy like anthills. I tell you because it's true. Kids jump off bridges, lions rip the necks off lizards, terrifying buses filled with dead tree trunks, thuds battered grill guards. Ringrazio tutti i camionisti che mi scrivono la differenza tra il bilico e l'autoarticolato. Il bilico è l'autoarticolato, mi scrive Claudio. Ciao. E poi quello lungo si chiama autoarticolato, quello doppio autotreno, Andrea da Brescia. Invece gente rimasta incastrata al passo del Gavi con nebbia settimana scorsa, con moglie e bimba di 3 anni da rassicurare. Solo lo spazio indispensabile per l'auto senza guardrail e sotto 2000 metri di vuoto. Ma io ho conosciuto il vero panico facendo finta di nulla, ma piangevo. Roberto, impantanato nelle campagne tunisine con un minivan durante degli scavi archeologici a 100 km da Tunisi, da solo e senza sapere una parola di francese, salvato da una famiglia di contadini del posto grazie alla famosa leva di Archimede. Mauro, io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono sempre Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, Emilia Lucchetti. Grazie soprattutto a Elide, ovviamente, perché la storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Paolo, vivo a Piacenza, la storia di domani è la mia e parla dei miei primi passi nel mondo delle auto storiche, con un incontro che ha segnato la mia vita. Questa è la mia storia e io sono qui. Auto d'epoca, alla Fiera di Padova dal 23 al 26 ottobre. Vi ha presentato Voi siete qui.